mettero le mani in bocca, di Nive, ne sono in orche. Nive, ne sono in orche. Dice, mi mettero le mani in bocca, di Nive, ne sono in orche. Nive, ne sono in orche. Dice, mi mettero le mani in bocca. Origa, ho manato nel pianci, ieri hai sui so, casca nel suo tempo. Casca che non ha ci. Haciman chi shire bogo shi pono Nika hanen tis baran gote Nem A-N-A-M osa si Sen mu kero pinde ni bene sone nonen got Ya, ni beso no que, ya, ni beso no que, ya, ni beso no que, apa.